alle 10.30 del 28 dicembre 2003 a Torino è stato abbattuto uno degli 8 palazzi del complesso delle case popolari di via Artom e via Fratelli Garrone. Quella stessa mattina, all'alba, come chi di notte fugge, presi l'intercity Torino-Venezia e tornavo a casa, a Padova. Non me la sono sentita di assistere all'abbattimento di 40 anni di storia, 40 anni di vita vissuta, 40 anni che hanno impregnato le pareti di quei palazzi. E così, mentre tornavo, avevo con me da leggere un libro, Mirafiori, la città oltre il Lingotto, storie di via Artom e dintorni, di Angelo Castrovilli e Carmelo Seminara. E così ho iniziato a leggerlo, così come faccio io, che non sono un gran lettore, aprendo delle pagine a caso, come si farebbe con la Bibbia. Il trasferimento dalle casermette in via Artom venne effettuato come una tipica azione militare. 60 ragazzi presenti al Ferrante a Porti, carcere minorile, provengono da Mirafiori Sud, molti da via Artom. I politici si facevano vedere al tempo delle elezioni in cerca dei nostri voti. Vivere in via Artom è come avere un marchio addosso, sanno bene di averlo in quarta e quinta e te lo spiegano bene che cosa vuol dire, è una cosa dura e grande che non si riesce a togliere. E così, mentre pensavo a questa lettura, ricordavo altre letture che ho fatto io, che non sono un gran lettore, prendo delle pagine a caso come si farebbe con la Bibbia, e ricordavo un trattato sulla tutela dei minori e la Costituzione. La tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti. E pensavo anche Platone, la Repubblica, e con la giustizia, possono i giusti formare degli ingiusti? E così, mentre pensavo queste cose, arrivavo a Padova, scendevo dal treno, passavo da casa, prendevo la borsa per fare allenamento, andavo in palestra, in testa, non avevo altro che questa storia che volevo raccontare. Tutti dovranno lasciare l'area entro le ore 10 per le operazioni di demolizione dello stabile di via Garrone 73. Si avvisa che tutti dovranno lasciare l'area entro le ore 10 per le operazioni di demolizione. Nel ventennio che intercorse tra gli anni 50 e gli anni 70, in Italia vi fu una grossa ondata migratoria, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Basilicata verso il nord, soprattutto verso Torino, perché siamo in piena era Fiat, Mirafiori, Rivalta, Lingotto, il triangolo d'oro dell'automobile. E chi ci va a finire a lavorare? Sono migranti, contadini, reduci dalle lotte per l'occupazione della terra, uomini sconfitti dalla riforma agraria, forza lavoro mobile pronta ad accorrere laddove chiamano le esigenze del grande capitale. Fu per questo che Torino, intorno agli anni 60, divenne la vera capitale dell'automobile e dell'automazione. Deteneva il primato della densità automobilistica e telefonica, a cui faceva riscontro però l'indice fra i più bassi per presenze di case, asili, scuole, posti letto e posti letto ospedalieri. A Torino, come del resto in molte città del settentrione, i migranti erano costretti a vivere in casermoni, baracche, scantinati, soffitte o edifici destinati alla demolizione. Era quella l'epoca in cui molti proprietari esponevano cartelli recanti la scritta «Non si affetta a meridionali». Fu per questo che il Comune di Torino nel 1962 deliberò l'incremento del piano Torino Casa, che prevedeva per la zona del Lingotto la costruzione di 800 alloggi da assegnare in locazione. L'area prescelta per il futuro quartiere è poco distante dal fiume Sangone e il nome di una delle vie che lo caratterizzò fu quello di via Emanuele Artom. Ma chi era Emanuele Artom? Emanuele Artom è stato soprattutto un ragazzo sfortunato. Nasce a Torino nel 1915, allo scoccare della prima guerra. Non è un buon inizio. Muore sempre a Torino nel 1944, quasi alla fine della seconda. Bastava poco e ce l'avrebbe fatta. Ma che? Il 7 aprile del 1944, mentre cerca di attraversare il confine sulla neve alta del Col Giuliani, ormai stremato dalla lunga fuga, si lascia catturare da una pattuglia delle SS italiane. E quando scoprono che oltre ad essere partigiano è anche ebreo, lo uccidono. Due settimane di torture inenarrabili, poi muore in una cella del carcere delle Nuove e viene sepolto in un luogo imprecisato sulle rive del fiume Sangone. Le famiglie che presero possesso dei nuovi alloggi possono ricondursi a 3 sottogruppi: baraccati, trasferiti, assegnatari per concorso. Di questi alcuni erano italiani profughi dall'Istria, sinistrati, alluvionati del Polesine o ex internati che vivevano in baracche. Altri provenivano dalle casermette di Borgo San Paolo, che furono demolite in occasione del centenario dell'Unità d'Italia e che Diego Novelli, per anni sindaco di Torino, descrive come una sorta di bidonville lungo le rive del fiume Po. Tutti presero possesso degli alloggi tra il 1965 e il 1967. Anche la mia famiglia è del sud, Basilicata, e proviene da un paesino di pastori e contadini posto sul cucuzzolo di un burrone, Aliano, che è il paese in cui fu esiliato Carlo Levi, che scrisse «Cristo si è fermato a Eboli». Al paese mia madre faceva la bracciante, qui a Torino fa le pulizie a domicilio, lavora in fabbrica, la Fimit, che produce accessori per auto. Lei tiene all'ordine in maniera quasi maniacale, gli armadi li dispensa e sono vetrine da boutique, i vestiti sempre quelli, ma puliti, non sia mai che qualcuno dica che i miei figli vanno in giro sporchi, poveri sì, ma puliti. Lei è segnata più dal numero dei figli partorito che dal tempo dei suoi anni, ma si vede che è una bella donna e ci si stupisce guardando l'album di famiglia a vedere quanto fosse magra. Come mio papà, sa fare la sua firma in una grafia elementare, ma ha una capacità sorprendente di cogliere al volo il carattere delle persone. Lei è una che rimugina di continuo, è una che pensa. Papà no, impulsivo, facile all'ira. Lui è autoritario, ma non per indole, per come gli è stato trasmesso dal padre. Adotta il modello educativo dello schiaffo, della pedata, della cinghia, insomma meno. Prima di arrivare al nord è stato contadino, pastore e manovale. Qui a Torino è finito operaio presso la fonderia Rifometal, una succursale della Fiat, detto agli alti forni, 14 ore al giorno. Esiste un modo giù al paese per indicare un bravo ragazzo, uno che porta avanti la baracca spaccandosi la schiena di lavoro. Nociucce fatiche! Così si dice, e così è mio padre. Prima di abitare in via Artom, abitammo in una sorta di magazzino. Poi mio padre si mozzò un dito sul lavoro e non ebbero più i soldi per pagare quel misero affitto. Una volta sgomberati, finimmo tutti a dormitorio pubblico. Ma loro sono contadini e pastori, vengono dalla terra, abituati a tener duro, a vivere con poco, e di fronte ai problemi non si perdono certo d'animo. E così, dopo che mio padre si riprese dal dito mozzato e andava in giro a cercare lavoro, nostra madre, insieme ai 5 figli, occupò una stanza dello IACP, Istituto Autonomo Case Popolari. E anche la mia famiglia, dopo 2 settimane di estenuanti trattative, assegnarono un'abitazione composta da 2 stanze, soggiorno, cucina abitabile e cesso. Un vero salto di qualità. Maria è la primogenita, Domenico il secondo, Terzi io e Rocchina, gemelli. Nel novembre del 1967 nasce Teresa, l'ultima delle sorelle. Diego Novelli, per anni sindaco di Torino, dichiara: il trasferimento dalle casermette in via Artom venne effettuato con una tipica azione militare. Fu una sorta di deportazione. Di mattino presto le casermette vennero circondate dalla polizia e fatte sgomberare. E man mano che si sgomberava, demolivano le pareti interne per non far entrare altre persone. La gente venne accampata nei palazzi prefabbricati in fretta e furia. Alcune famiglie che non avevano mai abitato in condominio non erano preparate a questa nuova vita di convivenza. I bambini erano abituati a vivere in libertà, a fare i propri bisogni all'aperto. I rifiuti erano gettati in strada. Alcune famiglie che non avevano mai visto o utilizzato una vasca da bagno la smurarono e la collocarono sul balcone per piantarvi prezzemolo e altre verdure. Così vennero riempiti i palazzoni di via Artom. A pochi chilometri dal casello autostradale sud, arrivando da strada Castello, superato strada delle Cacce, li vedevi. 8 grandi palazzoni di 10 piani ognuno. 5 di questi disposti in modo da formare un cerchio, nel cui centro appare un vasto piazzale con la montagnola in mezzo. A recintare il tutto un muretto, alto mezzo metro. In un punto del muretto, all'incrocio tra via Fratelli Garrone e via Fratelli De Maistre, i ragazzi possono sedersi comodamente e vedere dalla parte opposta il campetto di calcio della parrocchia. Questa è la vetrina, il punto di ritrovo dei ragazzi di via Artom e via Fratelli Garrone. Il quartiere, a vedersi, non è per niente bello. I portoni per buona parte sono privi di serratura o di vetro, per questo si può entrare senza suonare nessun campanello, anche se nella maggior parte dei casi i campanelli non ci sono più. Dalle cantine del quartiere si sente uscire odore di piscio, muffa, merda. Nella penombra scheletri di motorini bruciati, resti di sanitari, mobili vecchi, riviste pornografiche, armi e ere furtiva. In cortile è sempre uguale, gente che bivacca seduta sui muretti, donne che chiacchierano, bambini che giocano, ragazze che civettano, ragazzi che confabulano, saluti, baci, abbracci, macchine, biciclette, motorini, inseguimenti, sparatorie e lisse. dall'ottavo piano è come essere davanti alla TV. Vedi e senti tutto. Damiano, vieni a mangiare la pasta e fa solo con la cimatrap. Roberto, Sabatoni, va a pigliare lo cattoni. Questo è mio padre. Una cosa che mi dà fastidio di lui è che mi chiami fischiando come farebbe ancora una pecora. Lui ha paura che frequenti i ragazzi del quartiere, per questo mi impedisce di andare giù in cortile. Voglio andare giù, voglio andare giù. Continua a ripetere inginocchiato con la fronte appoggiata al pavimento, su e giù per il corridoio come atto di protesta. E quando mi affaccio dal balcone vedo questi ragazzi che giocano a biglie, giornalini, costruiscono capanne, fionde, vanno in bici, motorino, si divertono, mentre io passo il tempo con la fronte appoggiata alla sbarra di ringhiera di casa mia. Quei ragazzi, quelli che vedo in cortile, mi stanno sul culo. Li considero prepotenti e arroganti perché colpiscono in gruppo quelli soli e perché rubano. Io non ho paura di loro. È solo che non so come si faccia a botte, anche se a scuola mi sono sentito dire sempre la stessa cosa. È un ragazzo intelligente, ma vivace, vivace, troppo, troppo, troppo vivace. Quindi il collegio, 3 anni. Ogni tanto, quando nostro padre non c'è o deve fare il turno di notte, nostra madre ci dice: scriate, ruppite vanuccio du col. E allora io corro, veloce, facendo di corsa gli 8 piani, con rischio concreto di rompermi l'osso del collo. Una volta, mentre sono in cortile, vedo un gruppo di questi ragazzi che ruba della biancheria stesa ad asciugare. Aspetto che si allontanino e vado a dirlo direttamente alla padrona di casa. E lo faccio di gusto. Poi mi allontano in fretta per non essere visto. Mi godo la scena dal balcone di casa mia, dalla mia cella. Ascolto le urla del padre di uno dei ragazzi perché picchia il figlio per la malefatta. E quasi li vedo. Ma sì, perché noi abitiamo a 20 metri dal palazzo di Via Artomo. Siamo chiusi nello stesso recinto, ma via Fratelli Garrone, al tempo, a Torino, non la conosce nessuno. E quando mi ribello a mio padre e scappo per la prima volta di casa, vado a finire direttamente in vetrina. E anche per me il muretto, la vetrina, diventa il luogo in cui ci riuniamo per trascorrere gran parte del giorno e della notte. E quando fa freddo accendiamo il fuoco per scaldarci e sentirci insieme come una tribù. E poi all'alba andiamo al forno a prendere il pane caldo che riempiamo con salame o cioccolata. Nello stesso punto ci ritroviamo ragazzi di età compresa tra i 13, 17, 18 anni, così come fanno gli operai davanti ai cancelli della fabbrica prima di andare al lavoro. Ma sì, perché noi così chiamiamo le nostre scorribande, i nostri saccheggi, lavoro. Solo che per gente come mio padre il suono delle sirene, vale a dire gli operai, assume un differente significato. Loro, quando le sentono, stanno entrando o uscendo dalle fabbriche, tristi, depressi, incazzati. Quando le sentiamo noi, scappiamo a gambe levate. Come loro, per portare a termine il lavoro, a seconda del tipo di mansione, che so, scippo, furto d'auto, in appartamento, formiamo delle squadre composte da 2, 3, massimo 4 persone. Oh, minchia, ci vieni tu, minchia, domani a fare, minchia, uno strappo con me? Oh, minchia, te l'ho chiesto, che cazzo fai, ci vieni? Vabbè, oh, minchia, tranquillo, vabbè. Vabbè, se minchia, ci vieni tu con me? Minchia, neanche tu, minchia, veramente, oh. Oh, vabbè, ho capito, minchia, che minchia, avete fatto tutti i soldi. No, vabbè, ci vieni tu. Minchia, neanche tu. Minchia, pezzi di merda. Oh, quando ho bisogno io, minchia, non ci viene mai nessuno. Minchia, pezzi di merda. Sì, vabbè, però adesso fai una canna, va. Minchia, vabbè, faccio la canna, va. Minchia, veramente. Oh, minchia, in discoteca domenica com'è andata? Minchia, in discoteca, minchia, abbiamo preso uno. Minchia, le botte che ci abbiamo dato, ma sai calci in faccia? Papà, papà, papà, minchia, pezzo di merda, minchia. Almeno lo capisci, minchia, che qua, minchia, vengono i due leoni, minchia, la nostra discoteca, minchia, vogliono fare i prepotenti. Minchia, schiaffone in faccia, minchia, veramente, oh. Minchia, lo devono capire. Minchia, oh, bel giubbotto, eh. Minchia, cos'è? Un raff? Minchia, bello. Guarda il mio, minchia, questo è il chiodo, ti piace? Minchia, veramente, bello. Minchia, oh, ma sai che io appena faccio un po' di soldi, minchia, apro un negozio e ci metto, minchia, dentro la mia famiglia a lavorare. Minchia, veramente, anch'io, sai? Ma se, minchia, io invece i soldi me li sputtano tutti, che cazzo me ne frega? Minchia, ho capito, cretino, e poi quando vai in galera non c'è neanche i soldi per pagarti l'avvocato. Minchia, veramente. A volte capi che il tempo scorre senza che diciamo una parola, in silenzio. ognuno dentro il proprio sogno, vicino al fuoco, con la testa tra le gambe, mentre ognuno pensa che la coda tra le gambe non la metterà mai. Renato Valente, allora assessore comunale, dichiara: purtroppo ho qualche timore che risolto questo caso, il caso delle casermette di Borgo San Paolo, possa nuovamente rifommarsi, se non si ponga termine a quelle condizioni che hanno originato le casermette stesse, altrimenti assisteremo alla formazione lenta ma tumultuosa di quello che può essere indicato come un vero e proprio ghetto. E in quel ghetto c'è Potito detto Zozzone. Lui è cresciuto tra i rottami di un'autodemolizione, montando e smontando motori, capelli biondi sparati in aria, con mani e faccia sempre sporche di grasso. Minchia, oh, sai che fai tu? Tu te vai a fare una bella motoretta, no? Minchia, te vai a rubare una bella vespetta, però minchia, non è che te vai a rubare minchia una cazzo di veschietta che minchia fa schifo. Te ne fai una bella, tu me la porti a me, io la rivernicio, ci cambio il numero di matricola, ti do il libretto, ovviamente mi dai qualcosa e siamo a posto. E poi c'è Pingoncino, soprannome ereditato dal fratello maggiore che tutti chiamano Pingone. Lui è siciliano e scuro di carnagione. Minchia, ce l'ho detto, minchia, ce l'ho detto, minchia, tre volte ce l'ho detto, minchia, ma sto cretino, minchia, non voleva capire, vera? Ce l'ho detto, minchia, il sistema, noi, minchia, siamo schiavi del sistema. Ma che cretino, minchia, come cazzo faccio a saperlo? Lo so, ma perché me l'ha detto mio zio Gianò? Ma lo sai che mio zio Gianò fa parte della banda dei Marsigliesi? Ma che cazzo ne sai tu, cretino? Ci frequentiamo dai tempi delle medie, quando insieme marinavamo per andare in mezzo ai campi, costruire capanne, accendere fuochi o guardare qualche rivista pornografica. Nella cartella, oltre a cianfrusaglie varie, non mancava di tenere un coltello a scatto e una scacciacani, che ogni occasione sventolava minacciosamente sotto il naso delle sue vittime. E poi c'è Oronzo, minchia, ma che cazzo dici? Oh? Minchia, ti ho detto che non mi chiamo Oronzo, mi chiamo Enzo, hai capito? Enzo! Ogni volta che gli sbirri ci fermano gli fanno Oronzo, non fa un stronzo, e lui si incazza a morte, quindi noi non lo chiamiamo mai così. Il problema che più l'attanaglia, questo più di tutti, che avendo perduto due incisivi in una risa ed essendosi fatto mettere una protesi che non va mai a far fissare, capita che perde i denti nei momenti meno opportuni. Una volta, mentre stava baciando una ragazza, gli sono cascati. Un'altra volta, nel pieno di una rista, mentre stava puntando la pistola in faccia a un tizio. Non ci si crede? Ma l'abbiamo sempre recuperati al buio, dopo una frenata brusca fatta in moto, nella bocca delle donne, ovunque. Tranne quella volta che mi chiese di infilargli due diti in gola per vomitare i suoi denti. E io, ovviamente, non lo feci. E poi c'è Lucchino, più piccolo di età e anche fisicamente. Lui si atteggia da bullo, fa il duro, imita il fratello più grande, Giampiero, è taciturno e di poche parole perché poche ne conosce. C'è qualche problema? Tutto a posto? C'è qualche problema? Tutto a posto? Insomma, siamo in tanti. E ci sono anch'io, alto, magro, con i capelli lunghi davanti agli occhi, sempre nascosti. Credo che il tentativo ostinato che perseguo sia quello di sparire. Mi vergogno del corpo magro e della dentatura irregolare. Oh, andesse, oh, scheletri, oh, andesse, oh, scheletri, oh, andesse, oh, draculino, oh, andesse, oh, draculi. Mi incazza a morte quando me lo fanno. Insomma, siamo tanti. C'è anche Mauro Fedino. Minchia, oh, c'ho un cane io. Minchia, l'ho chiamato Tex come quello dei giornaletti. Minchia, ma lo sai che, minchia, il mio cane mi pare che mi parla, che io quando lo chiamo da baccone, minchia, quasi che mi risponde. Minchia, veramente. Ma lo sai cosa ho pensato, Cuppino? Che io, minchia, me lo porto a fare le rapine come quello della banda dei Doberman. Insomma, siamo in tanti. C'è Pilo Rosso, Nasca, Nano, il Guercio, Pantera. Ci muoviamo in branco come piccoli lupi, siamo pronti a saltare al collo di chiunque si metta contro e solo dentro via Artom ci sentiamo sicuri. Quando scappiamo inseguiti da qualcuno dagli sbirri, ci basta entrare in zona per essere quasi certi di avercela fatta, e di notte ancora di più, perché non c'è neanche l'illuminazione, qualche bravo ragazzo ci pensa appena mettono su due lampadine. Gli sbirri si guardano bene entrare oltre i cancelli di via Artom, sia di giorno che di notte, perché dai balconi può essere che gli arrivi di tutto. Siamo stati gli unici ad aver scippato degli zingari. Aiuto, bandito, bandito, cullana, cullana! Me lo ricordo come gridava quella ragazza. Con i primi soldi che passano vado a comprare vestiti, stivaletti, jeans, maglietta, camicia e giubbotto. Mi piace vestire gli abiti comprati con i miei soldi e non quelli di recupero che una signora porta nelle nostre case come in altre case del quartiere. Questa arriva nelle case con grandi borse di plastica pieni di oggetti vari, vestiti smessi e giocattoli accantonati. E per tutti è quasi Natale. Invece a me sta sul culo, a causa dello sguardo compassionevole col quale ci guarda. Arraffo i doni con rabbia e umiliazione. Nel quartiere non esistono asili nido, Ne stanno realizzando uno vicino alla periferia, ma prima che lo finiscano dovremo aspettare ancora chissà quanto. E in questo periodo i bambini si moltiplicheranno e la situazione sarà peggiore di adesso. Secondo noi non è giusto che i bambini delle case Fiat e i bambini di via Arton vengano divisi in due gruppi. Questa situazione provoca una frattura che potranno riportare anche quando avranno finito la scuola. In un ghetto tutti ammucchiati, vivono solo gli immigrati, siamo stati emarginati, e questa è la verità. Niente scuole, niente case, i bambini nelle strade, cadono a pezzi i pavimenti, i servizi sono carenti, è una vera porcheria, viva la democrazia. Ghetto, ghetto, ghetto di questa grande città, abitiamo in via Arton, e questa è la verità. Minchia, ma ti ricordi quando il signor Scali, quello che aveva costituito il primo comitato inquilini, ce la faceva cantare insieme al figlio in mezzo ai campi sperimentali? Sperimentali, minchia, veramente. Minchia, i campi sperimentali te li ricordi, che c'erano le pere, le mele, le ciliegie, le albicocche? Minchia, noi li popolavamo, andavamo a giocare a pallone, le frecce, le cerbottane, facevamo le capanne. Minchia, veramente, ti ricordi con Enzino Lamarca che minchia pascolava le capre e le pecore? Minchia, veramente. Oh, minchia, ti ricordi quella volta che il signor Scali, minchia, aveva svegliato tutto il quartiere con megafono? Ti ricordi? Minchia, scendete giù, scendete giù, scendete giù. E minchia, io non capivo che cazzo voleva, minchia. Allora mi sono affacciato e praticamente voleva che mettevamo a posto le aiuole, minchia, veramente. Oh, minchia, quella volta io sono sceso, ho partecipato, ho picconato, minchia, per la prima volta, minchia, i calli nelle mani, minchia, veramente. Minchia, ho capito, minchia, sto ricordando. Ho capito che non te ne frega un cazzo, però io ricordavo lo stesso. Vabbò, va, ho capito. Minchia, come andate in discoteca? Eh? Minchia, Luchino ha caricato uno e se l'è chiavata. Minchia, oh, veramente. Eh? Te la sei chiavata anche tu? Minchia, oh, pezzi di merda. Oh. Minchia, veramente, ma io non ci sono... Eh? Se la sta chiavando un'altra volta in cantina? Se me la voglio chiavare, minchia, se me la andiamo, no? Oh, minchia, non è com'è? Minchia, è alta, è bella, c'ha le tette, minchia, come fa? Oh, minchia, oh, stai tranquillo. Ho capito, minchia, che c'è? Ho capito, vabbè, vuole che sia come una cosa improvvisata. Va bene, aspetto il mio turno, qual è il problema? Invece non resisto. Cerco di smirciare, ma vedo solo il culo di Luchino su di lei, che ci mette un po' prima di finire. Pingoncino è molto più veloce e quindi tocca a me. Entro, la guardo, non è bella e neanche mi pare tale. Non è romantico e lo so, ma non mi tiro indietro. E lo so perché non è romantico, perché io mi ero innamorato di Melina e sapevo cos'era romantico, sapevo cosa voleva dire poter fare l'amore con Melina, il mio primo amore. E invece no, non è romantico, non è bello, ma non mi tiro indietro. Mi adagio su di lei senza sapere cosa fare e a un certo punto le dico: fallo tu. E lei lo fa. Quando sento il piacere giungere al culmine, questa volta però sono preparato e mi ricordo quello che mi ha detto un'amica su come fare marcia indietro: conta fino a 5 e poi sfilati. E io così faccio: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Lei mi guarda e mi fa: certo che sei proprio una scheggia. La maestra Maria. Quando nel 1973 venni destinata alla scuola elementare Cairoli, ricordo che altri insegnanti esclamarono stupite perché era la scuola di via Arton. Io non sapevo né dove né cosa fosse. Lo scoprì quando al primo giorno di scuola trovai una classe di 27 bambini che tenevano i piedi sui banchi. Il giorno del mio 14° compleanno vado a cercare lavoro ai mercati generali. Mi metto in fila con gli altri sperando di essere scelto, ma vengo scartato. Perché scelgono quelli grandi e grossi, mentre io sono secco come un chiodo. Bivacco un po' al bar, poi prendo la bici e vago per le strade deserte. A fianco una ragazza che porta una catenina d'oro al collo. Cerco di strappargliela, fallisco la presa, scappo. Ho il tempo di girarmi e vedere lo sguardo di stupore. Lei non grida e io non ho paura. Mi allontano dalla zona cercando un'altra da scippare. Ormai sono determinato, so di poterlo fare. In una via isolata vedo una ragazza che porta una borsa tracolla. Le passo accanto per capire quali reazioni possa avere. Nessuna. Salgo sul marciapiede dandola alle spalle. Parto da lontano in modo di avere il tempo di cogliere all'attimo favorevole, chissà, darmi la possibilità di ripensarci. Ma che? Come prima accelero e le sono addosso. Con gesto rapido le sfilo la borsa, pregusto il bottino. Ma mi accorgo che un'auto con dei tizi a bordo mi è dietro. Mi sono quasi al collo. Butto via la borsa in modo ad arrestare almeno per un po' la corsa. Si ferma e ne guadagno terreno, pedalo veloce, ma si toglie la catena dalla corona, mi fermo, la metto a posto, è sudato, con le mani e l'anima sporca, pedalo all'impazzata. Mi volto a guardare se sono ancora dietro e vado a finire direttamente col culo per terra. Sono andata a sbattere contro la stessa auto che, facendo il giro dell'isolato, ha continuato ad inseguirmi. Prendo la bici e la tiro addosso al guidatore che esce dall'auto, la salto di netto e corro via. Entro in un cortile, rubo una delle biciclette posteggiate e, con calma, pedalando, ritorno in via Arto. Da un documento cicloscritto della Commissione Servizi Sociali e Comitato di Quartiere. 60 ragazzi presenti al carcere minorile Ferrante Aporti provengono da Mirafiori Sud, molti da via Artum. La struttura del nostro quartiere fa sì che molti ragazzi e bambini crescono e vivono gli anni più importanti per la loro formazione in un ambiente nel quale esistono tensioni laceranti. Intanto tutte quelle derivanti dalla scelta sbagliata e antipopolare di costruire il grosso complesso delle case popolari di via Artum, fatto per ammassarvi la gente senza tenere conto dei difficili problemi di integrazione con chi già abitava nel quartiere. Difficoltà ancora oggi non superate. Basti pensare alla facilità con cui molta gente imputa senz'altro ai ragazzi di quelle case qualsiasi atto di teppismo o di violenza. Vi sono poi i falsi valori. Molti ragazzi vedono i loro coetanei col vestito alla moda oppure col motorino e danno a queste cose un'importanza tale da volerla ad ogni costo. Non dimentichiamo che questo stesso sistema economico che fa del benessere e del possesso di determinati oggetti gli obiettivi principali dai giovani sempre minori possibilità economiche. La disoccupazione è molto alta fra i giovani. Non ho certo un buon esempio quello di una società nella quale ricchi, furbi e potenti la fanno franca sulla pelle degli altri, non pagano tasse e, anche se rubano, non vanno in galera. È mattina. Valgo senza avere una meta precisa. Vengo affiancato da una 127 azzurrino acido. Alla guida c'è Tonino Triciclo. Lui ha 15 anni, un anno più di me. È giunto da poco nel quartiere, ma si è subito inserito. Sono 9 figli e vengono dalla Calabria. Oh, dai, sali, andiamo a fare un giro. Non me lo faccio ripetere, balzo su. Lui inizia a fare lo scemo e nel giro di poco, con la strada bagnata, alla prima curva sbattiamo contro il paletto della segnaletica. Scendiamo, raddrizziamo il paraurti e ripartiamo. Entriamo in un cortiletto delle case Fiat, recliniamo i sedili, accendiamo una canna, bussano al finestrino. Minchia sbirri. Ci caricano sulla volante e ci portano in questura. Identificati, fotografati, perquisiti, impronte digitali. Allora, abbiamo avvisato i vostri genitori dove avete preso la macchina. Risponde Tonino dicendo che l'ha trovata abbandonata nella zona, ma la risposta non gli piace e parte il giochino degli schiaffi. Li prende soprattutto Tonino perché si sono convinti sia stato lui ad avermi trascinato. Poi li prendo tutti io, perché si accorgono che lì c'ero già stato, denunciato perché avevo picchiato un professore all'uscita di scuola. Poi arrivano i miei genitori. Per un attimo, sì, solo per un attimo, sento di essere salvo. Cazzo, sono arrivati, ora mi portano via. E invece mi guardano fermi sulla porta, con occhi bassi, umiliati. E mio padre fa: è questa la fine che devi fare. Ah sì, è questa la fine che devo fare. E chissà grazie a chi. Comunque, guarda che questi ci hanno pure picchiati. Mio padre guarda gli sbirri e fa: avete fatto bene. Ma che cazzo dici, brutto stronzo? Invece di difendermi dici che hanno fatto bene, è nato schiaffone dallo sbirro. Silenzio. Guardo mio padre, guardo mia madre. Le lacrime mi rigano il volto. Cerco di trattenerle mentre mi caricano sulla volante per portarmi a carcere minorile insieme a Tonino Triciclo. Insieme attraversiamo quel portone, percorriamo quei corridoi che, per ironia della sorte, io già conosco. Ma sì, perché con la squadretta di calcio con la quale giocavo, per riuscire dagli spogliatoi a arrivare al campo bisognava passare sotto le finestre del carcere. E dall'alto ci arrivava di tutto, oggetti, urla, sputi, e noi corravamo veloci, anticipando la fase di riscaldamento. In una stanza poco illuminata ci fanno spogliare nudi come vermi, flettere sulle ginocchia, e una guardia napoletana fa: scabocchi, ingabocchi, avi placche, babatin. Ci danno le vettovaglie e ci mettono in cella, due diverse. In quella dove capito io siamo 3 italiani e un rom, che dice di avere 17 anni, ma a me pare che almeno ne abbia 20. Infatti è lui che, appena la guardia chiude il cancello, inizia l'interrogatorio. Tu? Cosa sei entrato? Furto d'auto, 2 giorni va a casa. Bei pantaloni. Dare a me i tuoi pantaloni. Cos'è che vuoi? Ho detto dare a me i tuoi pantaloni, non capire? Che cazzo vuoi? Io i miei pantaloni non te li do. Tu non capire, dare a me i pantaloni. Che cazzo vuoi? I pantaloni non te li do. Sei anche doppio di me, che cazzo te ne fai? Lui ci rinuncia. Inizia a fare il letto. Lo stesso Vlada, così dice di chiamarsi, mi aiuta e mi insegna a farlo con i nodi. La sera andiamo a dormire. Tutto bene. A un certo punto mi addormento. Non capisco bene. Inizio a scalciare. Sempre di più. Scalcio, scalcio, scalcio. Quasi pedalo, quasi pedalo, quasi pedalo. Sì, perché ho scoperto cos'è la bicicletta. E se avessero voluto farmi veramente male, avrebbero usato la plastica. La mattina scendiamo in refettorio e incontro Tonino Triciclo che indossa un paio di calzoni di almeno due taglie più grosse. Oh, ma i pantaloni? Ma no, niente, miglia. Ce l'ho prestati. Ma cosa ce l'hai prestati? Te l'hanno tolti. In gergo si dice camorrati. Dopo la colazione andiamo in all'aria. Un campo di calcio, uno spiazzo d'erba. Alcuni iniziano a giocare a calcio, altri formano un semicerchio nel quale capitiamo anche io e Tonino. In mezzo tre ragazzi. Tra di loro ce n'è uno di quelli che è in cella con me. Come al solito, il più grosso inizia l'interrogatorio. Tu? Per cosa sei entrato? Scippo. Bravo, bravo, qua abbiamo ragazzi interessanti. Tu? Otto d'auto. E tu? Minchia rapina. Oh, minchia rapina, abbiamo la malavita torinese. Minchia, bravi, però adesso vediamo chi è il bravo ragazzo e chi è il pezzo di merda. Allora, facciamo così. Tu adesso ci dai uno schiaffo a lui. Tu ce lo dai a lui e tu ce lo restituisci. Nah. E che era uno schiaffone quello? Ma vi pareva uno schiaffone dato bene? Aspetta, facciamo così, va. Forse siamo partiti troppo forte. Avete ragione. Allora, facciamo così. Tu ci dici che è un pezzo di merda. Tu ci dici che è una carogna. E tu ci dici a lui che sua madre è una gran buttana. E mica, adesso mica ti ha detto che tua madre è una gambuttana, mica ce lo dai lo schiaffo, no? Ma ce lo devi dare bene lo schiaffo. Ma mica, ma che ti sembra lo schiaffone? Voglio sentire lo schiaffo, non si sente bene, voglio sentire lo schiaffo. Mica, ma allora non hai capito, così ce lo devi dare lo schiaffone, allora non hai capito, ecco, così, bravo, bravo, vai così, bello, questo era bellissimo, vero, mica lo premiamo questo qua. Bravo, bravo, bravo, imparate in fretta però, devo dire imparate in fretta. Allora facciamo così, adesso invece, tu sai che fai? Tu invece adesso, sì, fate pace, dai, fate pace, vi facciamo fare pace. Ma non così, con la mano la danno quelli importanti, voi vi dovete baciare. Eh? Vi dovete baciare. Ma non così, vi dovete baciare sulla bocca. Così, ecco, bravo, baciare sulla bocca, ecco. Adesso però ci devi mettere la lingua. Metticela, tira fuori la lingua. Ecco, così, dovete limonare, ecco. Minchia, avete visto ricchioni, minchia, veramente. Oh, guarda, ricchioni, pezzi di merda. Adesso tu ci prendi il cazzo in mano a lui. Tu ce lo prendi in mano a lui e tu ce lo prendi in mano a lui. Il terzo scappa via, alcuni fanno per inseguirlo. No, no, minchia, state fermi. Lasciatelo andare. Quello lì è un bravo ragazzo. Voi due invece siete due pezzi di merda. Perché i bravi ragazzi queste cose non le fanno? Il pomeriggio uno che avevo conosciuto all'aria viene a chiedermi in prestito la camicia per fare il colloquio. Io gliela do, sperando che diventiamo amici. Non rivedo né lui né la camicia. Tre giorni dopo esco e dimentico. Siamo in tanti intorno al fuoco e siamo tristi e anche incazzati. Enzo è stato ucciso da poco. Gli sbirri gli hanno sparato mentre guidava una 500 rubata. Aveva 14 anni. Prima di morire ha regalato una Vespa a Padulo il Gufo. Sappiamo che Tonino Triciclo gliel'ha rubata. Per questo, oltre a essere tristi, siamo anche incazzati. Stiamo quasi andando a dormire e sento Tonino, Tonino, Tonino. Corriamo verso il suo portone e mi accorgo che è appena successo una rissa. Tonino è riuscito a scappare facendo di corsa i 5 piani. Usciamo dal portone e dal balcone del 5° piano si affaccia il papà di Tonino con la sua doppietta. Andatevene via altrimenti sparo. Ma mettitele in culo quelle canne, pezzo di merda. Un colpo, due, ricarica, tre, quattro spare. Gino con le stampelle si tuffa sotto un bidone della spazzatura. Chi entra in qualche portone, chi corre per fermarsi qualche più isolato più là. Io entro in un portone e sento ancora uno, due, ricarica, tre, quattro spari. Silenzio. Esco dal portone. Tutti gridano vicino un corpo immerso in una pozza di sangue. Mi avvicino e vedo che Damiano Pepita, colpito al volto e alla schiena, sussulta. Cazzo, mi dispiace, eh? No, mi dispiace, veramente, mi dispiace. Però vaffanculo, almeno la smette di derubarci appena può. Lo carichiamo sulla prima auto che passa. Altri vanno in cantina. A un certo punto mi volto e vedo Giampiero, fratello di Luchino, che tira fuori i pezzi di un fucile avvolto in una coperta, lo monta e spara in direzione del balcone. Pilo Russo scarica i colpi di un'automatica. Pantera con la 357 Magnum, come quella dell'ispettore Callaghan. Pinuccio si incazza con la sua automatica inceppata. Ormai in preda a una crisi isterica, smettono solo a colpi finiti. Silenzio. Gianni! Gianni, Gianni, mia madre, me la vede a rebare in ciabatte e vestaglie. Mamma, ma che cazzo fai qua? Vai a casa. Ti prego, Gianni, vieni a casa. Hanno sparato. Ho capito, mamma, che hanno sparato. Non ti preoccupare, non è successo niente. Io sto bene, io adesso vengo a casa. Ti prego, Gianni, vieni a casa con me fino al portone. Vabbè, mamma, facciamo così, io ti accompagno fino al portone, poi io vengo. Me la mezz'oretta e vengo, va bene, vai tranquilla, ma. Sulla rampa delle scale mio padre, vieni su. Che cazzo vuoi? Io se non ci vengo, t'ho detto di venire su, ma vaffanculo! Lui reagisce, inizia a picchiarmi. Mi raggomitolo all'angolo del portone. Basta, basta, lo ammazzi, fermati, lo ammazzi, basta, basta. Ma lui non si ferma, calci, pugni, strattoni su tutto il corpo. Senza rendermene conto sono in piedi. Lo prendo per i capelli, lo tiro giù, gli sferro una serie di calci in faccia e scappo via. Da lui e dagli sbirri, che giungono a sirene spiegati. L'ho amato, sfidato, temuto questo padre che colpisce duro e forte per farmi più sicuro e saldo di se stesso. Mi ricordo anche una volta che me lo vidi arrivare a casa con chiari segni di colluttazione sul volto e odiai profondamente chiunque si fosse permesso di toccarlo con luride mani. Sicuramente un branco di vermi, sicuramente gente come me, sicuramente gli stessi che frequento io. A seguito della sparatoria arrestano una 15ina di persone. E io per settimane non torno a casa. Il quartiere è il quartiere tipico dormitorio della periferia. Un insieme di case unite soltanto dalla vicinanza geografica. La situazione di abbandono degli abitanti delle case di via Artum, la loro condizione di ghetto staccata dal resto del quartiere e in molti casi la difficoltà oggettiva delle condizioni di vita portano a sviluppare relazioni personali e tipi di comportamento violento e asociale. I ragazzi in carcere, bisogna pagare gli avvocati, fare la spesa, comprare scarpe, vestiti, 2-3 scippi al giorno, catenine, orologi, borse, uomini, donne, giovani, vecchi, derubati, trascinati, battuti, insultati. Una volta scippando un'anziana signora a rischio di farmi catturare, il suono rocco che mette mi costringe a voltarmi. Guardo il ciondolo tra le mani e vedo che ci sono 2 ritratti, quelli di un uomo e quelli di un bambino, entrambi in bianco e nero. Prendo le foto, le tolgo dal ciondolo, alzo il braccio per fargliele vedere, le poggio a terra e scappo via. Un'altra volta siamo io e Zozzone, vediamo 2 ragazzi, 2 bei giubbotti, cremini, figli di papà. Scende al volo dalla moto, do uno schiaffo a mano piena sul naso di uno, si accascia. Appena toccato il suolo, un calcio in testa, prendo per il collo, strappo, frugo nelle tasche. Zozzone immobilizza l'altro che gli dà tutto quello che indica col dito. Anche questa è fatta, via veloci come il vento. Il mio quartiere è visto molto male dal di fuori, ma noi ragazzi siamo molto uniti. Sono convinto che il calore, l'affiatamento che esiste tra noi, che siamo cresciuti qui, non lo avremmo trovato in altre parti. Il senso di gruppo e appartenenza al quartiere è molto forte. Oh, minchia, Gianni, com'è? Minchia, Luchino, com'è? minchia com'è, hanno arrestato proprio tutti, minchia hanno arrestato proprio tutti, minchia veramente, oh minchia tuo padre, tua madre, tua sorella, minchia ma che facciamo, minchia ma che cazzo vuoi che facciamo, oh minchia sai che facciamo, minchia mi è venuta un'idea, sai che facciamo, minchia rubiamo una macchina, ci facciamo arrestare e li andiamo a trovare, minchia oh veramente dai, oh facciamo così. Rubiamo una macchina con la quale giriamo tutto il tempo, fino a quando sbirri in borghese, pistola in pugno, ci intimano il fermo. Minchia, era ora, oh, è tre ore che stiamo girando. Minchia, oh, quando c'è bisogno di voi non ci siete mai. Minchia, veramente. Ho capito, vai tranquillo, sì, abbiamo rubato la macchina, però portaci a Ferranda Porti, ma che dobbiamo salutare i nostri amici. Sì, minchia, oh, veramente, confessiamo, sì. Vabbè, ma. E al Ferranda Porti. Un ricevimento, saluti, baci, abbracci, ci dicono che siamo matti, intanto pacche sulle spalle, ormai sono uno di loro. 10 giorni dopo esco, incapacità di intendere di volere. Quando faccio le fughe da casa, tutto va bene fino al momento in cui le luci delle stanze si spengono, le strade sono meno frequentate, i lampioni illuminano la via e rimango solo. Perché gli amici se ne tornano nella loro casa, davanti al loro pasto caldo, sotto le coperte del loro letto. Per un po' gironzolo, ma devo trovare un giaciglio per la notte. A volte lo risolvo rubando una macchina con la quale giro tutto il tempo. Oppure vado a dormire nei pianerottoli dei portoni. Scelgo sempre quelli ai piani alti, perché più si va su, più questi sono puliti e caldi. Questa notte scelgo quello di casa mia. Sono stanco, quasi mi addormento. Sento la porta che si apre, i passi che avanzano. Non ho neanche la forza di scappare, di andar via, picchia se vuoi. Tanto sono troppo stanco anche per pensare che un giorno ti fotterò. Ma lui non picchia, mi solleva, con tenerezza, mi porta in casa, mi toglie le scarpe, mi copre con attenzione, non mi dà una carezza sul volto, ma io lo sento, come l'avesse fatto. Dormo sonni profondi e penso che non fotterò più mio padre, né ora né mai. Poco dopo il giudice convoca me, i genitori e udienza da lui. Senza troppi giri di parole mi dice: se vai un periodo estivo e giù dai tuoi nonni, non prendiamo altri provvedimenti. E io ovviamente scelgo il paese. E qui ritrovo splendore, ma perché è proprio un altro mondo. Fin dai primi giorni ne apprezzo l'aria e gli odori. Conosco Ginuzzo, che ha solo un anno più di me, ma si occupa di gestire la masseria di famiglia insieme al fratello più grande. Con lui vado a pascolare capre e pecore, mangiamo pane, salame e formaggio con i vermi fatti in casa. Assisto alla mungitura, cavalca pelo fino a scorticarmi l'osto sacro. Per la prima volta sento il vento fischiare nella notte. Mi sento vivo. Ma perché qui è proprio un'altra storia. Non ho neanche una lira. Provo ad immaginare uno scippo nella piazza del paese, ma l'idea delle vecchiette vestite a lutto che mi rincorrono urlando, incitando i propri uomini a balzare in sella al mulo per mettersi all'inseguimento mi fa proprio ridere. Vado a lavorare. Siamo in un quartiere, su di un tetto. Bisogna fare il solaio, 5 metri d'altezza. È duro il lavoro sotto il sole caldo dell'estate. Al terzo giorno di lavoro, ormai pochi minuti dalla pausa pranzo, il capocantiere mi fa: Giannuzzo, vai a recuperare l'ultimo mattone che poi ce ne andiamo a mangiare. E io dico: cazzo come sono stanco, cazzo che stanco, vaffanculo che stanco. E succedesse qualcosa, piccola, perché io non debba tornare a lavorare questo pomeriggio. E mentre lo penso, sprofondo. Dall'alto mi cade in testa quel mattone che avrei dovuto recuperare. Mi sveglio all'ospedale con la flebo al braccio. Di quell'episodio mi è rimasto impresso l'odore del sangue rappreso, quello di coloro che si fanno male lavorando. Fortuna che io me ne torno a Torino, soprattutto me ne torno in via Artom. Quando mi allontano da via Artom mi prende un tuffo al cuore, e quando tornando da lontano vedo i palazzoni la stessa cosa, incontro i ragazzi del quartiere. Minchia, oh, com'è? Minchia, qua sembra la stessa cosa. E a te com'è andata al paese? Minchia, al paese, uno schifo, minchia, veramente. Ma sai, minchia, mi sono rotto i coglioni, minchia. Oh, ma lo sai che sono anche andato a lavorare, minchia, ho rischiato di morire dopo 3 giorni, minchia, veramente. Col cazzo che ci vado a lavorare, minchia. Oh. No, ma qui invece, minchia, è tutto a posto. Sono usciti anche qualcuno della sparatoria, minchia, veramente, sono contento. Come, minchia, non sei contento? Ma sei cretino, guarda che la galera non si augura a nessuno. Pinuccio si fa le pere. Forse era meglio che stavi in galera. Minchia, ma che cazzo dici? Ma poi non è vero che si fa le pere. Ma quale pere? Ma no, minchia, si fa qualche pippotto ogni tanto. Ma va. Minchia, anche Ciaciaco si fa. Minchia, si fanno proprio tutti. No, ma noi, minchia, noi non ci caschiamo, minchia, veramente. Però, minchia, ti ricordi che mito che era Sciasciaco, minchia, veramente, oh, minchia, oh, ti ricordi quando andavano a fare le rapine in Svizzera, che tornavano, minchia, si vedeva, avevano le moto, minchia, veramente. E perché le prime Kawasaki le hanno avute loro, minchia, ti ricordi? E perché le prime Golf? Il quartiere cambiò con l'apparizione del fenomeno droga. Quando arrivai non se ne sentiva parlare. I problemi erano legati ai furti. Con l'apparizione della droga, molti ragazzi, appena finita la scuola elementare, si dedicavano allo spaccio. Oh, ragazzi, ho trovato questa nascosta nell'ascensore di casa mia. Minchia, oh, ma è roba! Oh, fai vedere, fai vedere. Minchia, oh, dai, minchia, buttala, dai, minchia, no, buttiamola, dai. Minchia, aspetta, minchia, che cazzo buttiamo? Aspetta un attimo. Oh, minchia, un attimo, fammela, oh, ma un attimo, fammela assaggiare, dai. Ma no, minchia, che la fa col dito, fammela assaggiare col dito, minchia, veramente, oh, minchia, fammi assaggiare, ma minchia, oh, minchia, veramente, oh, senti, assaggiala, assaggia, minchia, che schifo, oh, minchia, amara, oh, fammela assaggiare anche a me, minchia, veramente, oh, minchia, è amara, oh, oh, vabbè, minchia, buttiamola, dai. No, no, minchia, buttiamo. Ma che buttiamo? Minchia, dai, ce l'abbiamo qua, minchia, proviamo, no? Minchia, facciamo un tiretto, minchia, proviamo. Ma noi mica siamo come gli altri, ma mica ci impugniamo. Ma minchia, noi proviamo e basta. Arrotoliamola al 1000 lire, prepariamo le strisce. Esito, tiro per ultimo, pizzica il naso. Continua a tirar su, un rigurgito, passa. Oh, ragazzi, io non ho sentito proprio un cazzo. Minchia, sta roba, minchia, è proprio una truffa. Ad un tratto invece un calore si diffonde per tutto il corpo. Ogni tirata su dal naso è una goccia di amaro, amore, che ti avvolge, ti attraversa. Tanto più amaro, tanto più senti il corpo e la tua mente avvolti da tepore. Il tono della voce cambia, l'espressione del volto si trasforma, quasi che l'effetto della roba invecchi istantaneamente i tratti. E il purito diventa piacevole, l'amaro strano, misterioso, affascinante, con un retrogusto forte, aspro, acido, vomito la bile. Camminiamo per le vie illuminate, le luci sono stelle, la strada un viaggio, il rumore melodia, i nemici amici, i carnefici fratelli, la gente bella, buona, la vita una favola. Miglia che sballo, troppo bello. Dalla cicca di una accendiamo l'altra. E le sigarette diventano pacchetti. Minchia che sballo, troppo bello. Con l'arrivo della droga alla fine degli anni 70 la situazione precipitò. Nelle case di via Artum fece subito presa. La presenza della droga in questo quartiere è di poco devastante. C'è l'uso e lo spaccio, ma quest'ultimo prevale rispetto al primo e sono i giovani che ne riportano le conseguenze. Oh, ne hai roba? Sì, un po', ma è poca. Oh, senti, visto che è poca e ci esce giusto un tiro, ma perché non proviamo a farcela? Almeno la sentiamo tutti e due. Sì, ma io non so come si fa. Sì, vabbè, nemmeno io. Ma sai cosa facciamo? Andiamo in un bar via Genova, lì dove ci sono i tossici. Ne prendiamo uno e gli chiediamo a lui che lo fa lui, no? Oh, vieni qua. Vieni qua. No, vieni qua. Senti, abbiamo un po' di roba, no? Ti offriamo due linee. Però lo devi fare tu. Ma no, minchia, vai tranquillo, non diciamo niente ai nostri amici. Vai minchia, tranquillo. Oh, ti ho detto tranquillo, se non vieni con noi, casomai due paroline ce le diciamo ai nostri amici, va. Andiamo nello stesso scantinato dove 3 anni prima diedi il primo bacio. E così come fu per lo Spinello, tutto si svolge in un mistico silenzio. Aprire la bustina, versare il contenuto del cucchiaio, spruzzare l'acqua e scaldare tutto. Sentire l'odore di caramello, legare il braccio, chiudere il pugno, guardare le vene che ancora pulsano, l'ago che poggia sulla pelle, la spinge, la tira, gli fa fare una piccola grinza e poi buca. E quando buca cerca la vena. Lo stantuffo tira l'aria, ma vuole il sangue, presa. Vedi la spritz che si colora. Lo stantuffo che spinge fino in fondo. 2-3 risucchi e senti il flash. Salto. le feste, la roba e i soldi sono finiti. Oh, minchia, che facciamo? Oh, minchia, abbiamo una 38 Smith Wesson, di quelle belle cromate, con il manico madreperla, quelle che luccica, un fucile a canne mozza, munizioni, due macchine, minchia, facciamo una rapina, no? Sì, dai, oh, si può fare, minchia, dai, io... Sì, io ci sono. Oh, minchia, io ho bisogno della roba, dai, la facciamo. Sì, però, ragazzi, andiamo fuori città, eh. Andiamo fuori città. E va bene, andiamo fuori città. Recupero da solo la 128 e a un certo punto mi raggiunge anche Lucchino, che porta con lui le armi. Mentre stiamo andando verso il paesino, a un certo punto della strada c'è un passaggio a livello, chiuso e fermo davanti una volante della polizia. Per evitare di trovarmici affiancato, volto all'improvviso e tampono lievemente l'auto davanti a me, ma poco. Questo qui esce dalla macchina e dico: Lucchino, guarda che questo adesso inizia a gridare, lì ci sono gli sbirri, poi ci arrestano, prendi via le armi, scappa, portale via, spesa. E invece questo scende dalla macchina, guarda, e mi fa: non si è fatto niente, scusa. E ripartiamo. Giunti a metà strada, saliamo sull'altra macchina. Olga guida, sta bene. Enzo in carenza e sta male. Lucchino, riducendo tutto un gioco, rompe i coglioni perché vuole guidare. Io sono stanco e mi rilasso sui sedili posteriori. Verso le 10 della mattina transitiamo nella piazza di questo paese, cercando di individuare qualcosa che faccia al caso nostro. Oh, ragazzi, minchia, ma che facciamo? Ho capito, minchia, una rapina, ma dove? Oh, minchia, facciamo un'oreficeria. Minchia, sarebbe la prima, ma facciamo un sacco di soldi. A un certo punto una pantera dei carabinieri inizia a tallonarci, ma non ci impongono il fermo e neanche parve vogliano farlo. Ci stanno dietro, quasi ci facciano da scorta, o come se ci stessero comunicando che lì nel loro territorio non si fa nulla. Vai a destra, vai a sinistra, vai dritto. Noi giriamo a destra, loro vanno dritti. Cazzo che culo, è la seconda volta che ci va bene, che culo. Lasciamo il paese. Recupero da solo la 128 portando con me le armi. A un certo punto si rompe il cambio e rimane innestata la seconda, con la quale però riesco a portarmi fino in via Arton. Vado al bar che frequentiamo abitualmente. Oh, avete visto gli altri? Sì, sono andati di là. Di là? No, io vado di qua. È che non me la sento più, è che mi pare che il tempo sia passato, è come non so, però penso che percorrendo la strada inversa possa ritardare il tempo necessario perché i negozi chiudano, e non dire agli altri che non me la sento più. Non glielo voglio dire che ho paura, non glielo voglio dire. Allora guardo davanti cercando di individuarli prima che loro individuino me, e quando sento il clacson alle spalle, dove cazzo vi eravate cacciati? Rivestendo in un attimo la maschera che a loro mi unisce. Minchia, facciamo l'oreficeria di via Monastir. L'orefice è uno tranquillo, di sicuro non ha neanche il pezzo. Non lo so. Ma sì, dai, minchia, cazzo, andiamo, minchia. Dai, no, io non sono... Non so, forse è meglio domani. Questa mattinata ormai è andata, dai. E iniziamo a discutere. Pare quasi che la stanchezza, la tensione che allenta, ci portino come onde gentili verso un approdo sicuro. Ma poi no. Ci si ritrova in un mare aperto e burrascoso, con noi e quegli ignari, tutti su questa zattera sgangherata, ed io mi sento come sospeso. Oh, ragazzi, io sono in carenza, ormai ci siamo, prendiamo le calze e via. Oh, dai, minchia, dai, io sono in carenza, andiamo. Secondo me, non lo so, si può fare. Comunque, vabbè, dai, io ci sono e va bene, andiamo. Olga va a comprare le calze, le scartiamo e le proviamo tutti. Io prendo la pistola, Ezio il fucile, Lucchino rimane fuori, Olga alla guida. Ezio suona il campanello e la porta si apre. Quella cazzo di porta si apre. Scivolo dietro di lui, infilandomi la calza in maniera disordinata. Poi gli sono accanto, prendo la pistola e punto: state fermi! Mentre dando la schiena si infila anche lui la calza e subito dopo, con gesti rapidi, sfila il fucile da sotto il giubbotto e urla: state fermi! E io sono lì che punto la pistola, anche io con azioni che vedo come sequenza al rallentatore, punto, state fermi, ma sono fermi. C'è un momento di sospensione, il titolare non si rende conto subito di quello che sta succedendo e va incontro a Enzo. Enzo prende il fucile, glielo mette sotto la gola e tira su. In quel momento, alzando i cani, il fucile viene armato ed io non lo vedo. L'entrata è il momento peggiore. È quello dove la voce trema e il cuore batte per sfondare. Le vene pulsano sulle tempie, su di sotto l'ascelle, sotto il naso, tra le natiche, la calza soffoca, i capelli lunghi offuscano la visuale, il tempo non scorre mai, guardo Enzo, grido, dai, dai, muoviti, muoviti. Lui è impacciato, non sa bene cosa fare, dove appoggiare il fucile, perché lì davanti alla cassaforte vuole prendere la roba, io sono lì, punto la pistola e tengo a badi tre, state fermi, state fermi, state fermi. E vedo tutto, come sequenza rallentatore, non so cosa fare, cosa dire. Lui, il titolare, dice: state tranquilli ragazzi, state tranquilli, prendete pure tutto ma state tranquilli. A un certo punto Ezio dice: oh, non riesco a prendere la roba, passami la pistola e prendi il fucile. Io lo faccio, gli passo la pistola e prendo il fucile, metto il palmo della mano destra a metà delle canne tagliate e la sinistra impugna il manico, l'indice e il medio arpionano il grilletto. Un colpo. La calza, i capelli davanti agli occhi non mi fanno vedere chi io cosa ho colpito, un odore acre mi buca le narici, il rimbombo dell'esplosione, lo stupore per un gesto non registrato, sono qui in questa stanza sollevata nel buio dell'universo, un ronzio senza fine penetra i timpani, la testa, il cervello, resto immobile, attonito, con le braccia penzoloni, non so che dire, non so che fare, sono vivo, sono vivo, sono vivo. Mi è passata davanti tutta la mia breve vita e forse quella di colui che ho ucciso e ancora non lo so. A scuotermi Enzo che grida: dai, andiamo via, spesa, spesa, spesa! Ma io rimango lì, fermo, immobile, e ricordo, non so perché, faccio delle smorfie, forse perché nonostante la calza, i capelli, mi sento scoperto e voglio cambiare faccia, sparire ancora. Enzo mi trascina via prendendomi per un braccio. Una volta fuori la luce mi abbaglia, mi spinge in macchina, mi prende il fucile dalle mani e io lo sguardo vuoto, assente, sono morto. Se non avessimo avuto le armi, se non avessimo rubato le macchine, se non avessi fatto quel primo scippo, se non avessimo fatto gli appartamenti, se avessi saputo, se avessi capito, se, quella rosa di pallettoni non sarebbe andata ad infrangersi, ad infrangere il corpo di quell'uomo, quel boato sordo che accompagna molte delle mie notti non avrebbe straziato il silenzio e la vita, e per un attimo ancora, lungo una vita che va, il silenzio. Come il genitore e vive forti, espresse, c'è a togliere. 2 anni e 4 mesi dopo si giunse al processo. Il pubblico ministero così si espresse: l'accusa ritiene che l'imputato, pur nelle sue condizioni di scarsa maturità intellettuale ed insicurezza di carattere, abbia coscientemente aderito alla progettazione della rapina e si sia ben reso conto della gravità degli attenti sociali che stava per compiere, agendo con la pienezza di capacità volitiva e intellettiva come un imputato maggiorenne. Vero che nel nostro paese non è prevista la pena dell'ergastolo per imputati minorenni, ma vista la specificità di questo caso, credo di poter avanzare tale richiesta nei confronti anche degli imputati minori. La Corte così sentenziò. Nei confronti di tale imputato deve essere respinta l'eccezione di legittimità costituzionale, secondo le norme che genericamente prevedono il simultaneus processus per i minori coimputati con i maggiorenni, avanzata dal suo difensore, il quale dichiara di averla avanzata per mero scrupolo difensivo e senza vera convinzione. Mentre dai dati emersi in sede di perizia psichiatrica successiva affatto emerge che il ragazzo appare come un soggetto mal strutturato, affettivamente e socialmente disadattato. Il passato è quello coerente e senza smagliature di chi ha imboccato la strada sbagliata. Se si trattasse di un adulto, si parlerebbe di lui come di una personalità psicopatica. Per questo, questa Corte respinge la richiesta del pubblico ministero e condanna l'imputato minore alla pena di anni 28. Quando sono tornato poi in Viarto dopo anni, ricordo che fermai uno del quartiere e gli dissi: mai fatto caso che via Arto anagrammato diventa via Morta? E lui mi fa: minchia, veramente, non ci avevo mai pensato. Faccio: sì, però l'anagramma per intero non è via Artom, è via Emanuele Artom. Allora anagrammato via Emanuele Artom e veniva, e là via Umana Morte. Ho detto: cazzo, sembra un gioco del destino. Ma io non credo al destino, credo piuttosto alla volontà di quei ragazzi, sociali, politiche, economiche, che hanno determinato che esistessero quartieri come questi e ancora oggi determinano nelle nostre città. D'altra parte, laddove qualcuno si arricchisce, altri pagano il prezzo, ma il prezzo non può ricadere solo su quei ragazzi, per i quali non chiedo assoluzione, ma giustizia, profonda, vera, partendo dal fatto che quando ci sono imputati minori non è sufficiente accertare una verità processuale, ma è necessario accertare una verità reale, anche se questi accertamenti spesso non coincidono con gli interessi delle parti adulte. Inoltre, anagrammando ulteriormente via Emanuele Artom, e chiudo, l'altro anagramma possibile diventa l'arte, muove e anima. E allora dico: se quei ragazzi, anziché la strada, la risposta repressiva dell'istituzione, avessero trovato altro, chissà